Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Una volta senza testimoni, il giovane Guascone e I Tre Moschettieri si guardarono con l'aria di chi capisce la gravità della situazione. «Lo vedete anche voi?» disse D'Artagnan a Athos. «È una guerra a morte». Athos scosse il capo. «Sì, sì», disse egli, «me ne rendo conto. Ma credete che sia proprio lei?» «Ne sono certo. Eppure vi confesso che ho ancora dei dubbi», disse Athos. «Ma quel giglio sulla spalla è un inglese che avrà commesso qualche misfatto in Francia e di conseguenza sarà stata marchiata». «Athos, si tratta di vostra moglie, vi dico», ripeteva D'Artagnan. «Non rammentate come i connotati corrispondessero? Eppure avrei creduto che l'altra fosse morta, l'avevo impiccata così bene». D'Artagnan scosse il capo a sua volta. «Ma insomma, che fare?» chiese il giovane. «Il fatto si è che non si può rimanere qui con una spada eternamente sospesa sulla testa», disse Athos, «e bisogna uscire da questa situazione». «Ma come?» «Sentite, cercate di raggiungerla e di avere con lei una spiegazione. Ditele, pace o guerra? Ditele, vi do la mia parola di gentiluomo che non aprirò mai bocca sul vostro conto e che non agirò mai a vostro danno. Voi però, ditele, dal canto vostro, giurate solennemente di rimanere neutrale nei miei confronti, se no io vado dal cancelliere, vado dal re, vado al carnefice, aizzo la corte contro di voi, signora, vi denuncio per il vostro marchio, vi faccio sottoporre a giudizio, e se vi assolvono, ebbene, vi ammazzo io. Parola di gentiluomo, in qualche angolo di strada, come ammazzerei un cane arrabbiato». «Questo sistema mi va», disse D'Artagnan. «Ma come raggiungerla?» «Il tempo, caro amico, il tempo porta l'occasione. L'occasione è per l'uomo come raddoppiare la posta. Più uno è puntato, più guadagna, se sa aspettare». «Sì, ma aspettare, circondato da assassini e da avvelenatori, bah», disse Athos. «Dio ci ha protetti fino adesso, Dio ci proteggerà ancora». «Noi, sì, d'altronde siamo uomini, è tutto considerato, è il nostro mestiere rischiare la pelle». «Ma lei?» soggiunse a mezza voce D'Artagnan. «Chi lei?» chiese Athos. «Constance». «Madame Bonacieux», fece Athos. «Ah, giusto. Povero amico, dimenticavo che eravate innamorato». «Ma», intervenne la miss, «non avete saputo proprio, dalla lettera trovata addosso a quell'infelice che ci ha lasciato la pelle, che era finito in un convento?» «Si sta benissimo in un convento, e non appena terminato l'assedio di La Rochelle, vi prometto che dal canto mio...» «Bene», disse Athos, «bene, sì. Caro Aramis, lo sappiamo che è vostro desiderio entrare in qualche ordine. Sono moschettiere soltanto ad interim», disse umilmente Aramis. «Pare che da un pezzo non abbia ricevuto notizie della sua amante», spiegò Athos sottovoce. «Ma non badateci, ci siamo abituati». «Ebbene», disse Porthos, «mi pare che ci sarebbe un sistema semplicissimo». «Quale?» chiese D'Artagnan. «Lei è in convento, voi dite?» riprese Porthos. «Sì. Allora, non appena finito l'assedio, la portiamo via da quel convento. Ma bisogna sapere in quale convento si trova». «Giusto», ammise Porthos. «Adesso che ci penso», disse Athos, «non affermavate, caro D'Artagnan, che è stata la regina a scegliere per lei questo convento?» «Sì, almeno lo credo». «Allora», fece Aramis, «mi incarico io di averne notizie». «Voi, Aramis!» esclamarono i tre amici. «Voi, e come?» «Tramite il cappellano della regina, con il quale sono in buoni rapporti», disse Aramis arrossendo. E con questa assicurazione i quattro amici, che avevano ultimato il modesto pranzo, si separarono con la promessa di rivedersi la sera stessa. Non appena arrivato al campo, il re, che aveva gran fretta di trovarsi di fronte al nemico e che, a miglior diritto, condivideva l'odio del cardinale per Buckingham, volle prendere tutte le misure, prima per cacciare gli inglesi dall'isola di Re, poi per stringere d'assedio La Rochelle. Le circostanze erano favorevoli. Gli inglesi, che prima di ogni altra cosa hanno bisogno di buoni viveri per essere buoni soldati, a forza di mangiare soltanto carni salate e biscotto cattivo, avevano nel loro accampamento numerosi malati. Per di più, il mare, assai burrascoso in quella stagione dell'anno su tutte le coste dell'oceano, tutti i giorni faceva colare a picco qualche imbarcazione, e la spiaggia, dalla punta di Aiguillon fino alla trincea, era letteralmente coperta ad ogni marea di rottami e di pinacce, di feluche e di scialuppe. Di conseguenza, anche se i soldati del re non si fossero mossi dal campo, era evidente che un giorno o l'altro Buckingham, che solo per testardaggine continuava a rimanere nell'isola di Re, sarebbe stato costretto a togliere l'assedio. Ma alla notizia data da Monsieur de Toiras, che nel campo avversario fervevano i preparativi per un nuovo assalto, il re stimò che bisognava farla finita e impartì gli ordini necessari per un'azione decisiva. Non essendo nostra intenzione fare un diario dell'assedio, ma anzi riportarne solo gli avvenimenti attinenti al nostro racconto, ci contenteremo di dire in due parole che l'impresa riuscì, con grande meraviglia del re e con grande gloria del cardinale. Gli inglesi, respinti a palmo, battuti in tutti gli scontri, schiacciati al passaggio dell'isola di Loire, furono costretti a reimbarcarsi, lasciando sul campo di battaglia 2000 uomini, tra i quali 5 colonnelli, 3 tenenti colonnelli, 250 capitani e 20 gentiluomini dell'alta nobiltà, 4 cannoni e 60 bandiere, che furono portate a Parigi da Claude Saint-Simon e appese con gran pompa alle volte di Notre-Dame. Al campo vennero cantati i Te Deum e di là si diffusero per tutta la Francia. Il cardinale fu quindi padrone di continuare l'assedio senza avere, almeno per il momento, nulla da temere da parte degli inglesi. Ma, come abbiamo già detto, la calma non era che momentanea. Un inviato del duca di Buckingham, il conte Montaigu, era stato catturato e si aveva avuta la prova di una lega fra l'impero, la Spagna, l'Inghilterra e la Lorena. Tale lega era diretta contro la Francia. Per di più, negli alloggiamenti di Buckingham, che questi era stato costretto ad abbandonare con molta maggior furia di quanto avesse preveduto, si erano trovati documenti che confermavano l'esistenza della Lega e compromettevano assai, stando alle affermazioni del cardinale nelle sue memorie, Madame de Chevreuse e di conseguenza la regina. Sul cardinale pesava tutta la responsabilità, perché non si è ministri assoluti senza responsabilità, perciò tutte le capacità del suo immenso genio erano tese notte e giorno e intente ad ascoltare il minimo rumore che si levasse da uno dei grandi regni d'Europa. Il cardinale conosceva l'attività e soprattutto l'odio di Buckingham. Se la Lega che minacciava la Francia avesse trionfato, tutta la sua autorità sarebbe andata perduta. La politica spagnola e quella austriaca avrebbero avuto i loro rappresentanti nel gabinetto del Louvre, dove per il momento non avevano che fautori. Lui, Richelieu, il ministro francese, il ministro nazionale per eccellenza, sarebbe stato perduto. Il re, che pur obbedendogli come un bambino, lo odiava come un bambino odia il maestro, lo avrebbe abbandonato alle vendette congiunte di Monsieur e della regina. Lui sarebbe stato perduto e forse la Francia con lui. Bisognava porre riparo a tutto ciò. Accanto loro i moschettieri, che all'assedio non avevano granché da fare, non erano sottoposti a una disciplina rigorosa e se la passavano allegramente. Cosa tanto più agevole per loro e per i nostri tre compagni soprattutto, in quanto, essendo amici di Monsieur de Tréville, ottenevano facilmente da lui permessi speciali per attardarsi e restarsene fuori dopo la ritirata. Una sera che D'Artagnan, in servizio di trincea, non aveva potuto accompagnarli, Athos, Porthos e Aramis, sui loro cavalli di battaglia, avvolti nei mantelli da guerra, una mano sul calcio delle pistole, tornavano tutti e tre da un'osteria scoperta da Athos 2 giorni prima sulla strada di La Jarrie, che si chiamava Les Colombiers Rouges. Percorrevano la via che conduceva al campo pur tenendosi allerta per timore di un'imboscata, quando a circa un quarto di lega dal villaggio di Boisneau credettero di sentire lo scalpitio di una cavalcata che veniva verso di loro. Subito si fermarono tutti e tre, stretti l'uno all'altro, e aspettarono occupando il centro della strada. Dopo un istante, proprio mentre la luna sbucava da una nuvola, a una svolta della strada videro spuntare due cavalieri. «Chi va là?» gridò Athos. «Dite voi chi va là?» replicò uno dei cavalieri. «Questo non è rispondere», disse Athos. «Chi va là? Rispondete o carichiamo!» «Attenti a ciò che fate, signori!» disse allora una voce vibrante che sembrava avvezza al comando. «Qualche ufficiale superiore che fa la ronda di notte?» disse Athos. «Che intendete fare, signori?» «Chi siete?» replicò la voce di prima con lo stesso tono di comando. «Rispondete voi, o potreste pentirvi della vostra disobbedienza!» «Moschettieri del re!» disse Athos, sempre più convinto che chi li interrogava ne aveva il diritto. «Che compagnia?» «Compagnia de Treville. Venite avanti a rendermi conto di quel che fate qui, a quest'ora!» I tre compagni obbedirono con le orecchie un po' basse, perché adesso tutti e tre erano persuasi che avevano a che fare con qualcuno più forte di loro. Del resto lasciarono ad Athos la briga di parlare. Uno dei due cavalieri, quello che aveva preso la parola per secondo, era di 10 passi davanti al compagno. Athos fece cenno a Porthos ed Aramis di starsene anche loro indietro e venne avanti solo. «Scusate, signor ufficiale», disse Athos, «noi ignoravamo con chi avessimo a che fare e potete constatare che facevamo buona guardia. Il vostro nome?» chiese l'ufficiale che si copriva una parte del volto con il mantello. «Ma voi stesso, signore», disse Athos, che cominciava a ribellarsi a tale richiesta, «datemi, vi prego, la prova che avete il diritto di interrogarmi». «Il vostro nome?» ripeté ancora il cavaliere, lasciando cadere il mantello in modo da avere il viso scoperto. «Il cardinale!» esclamò il moschettiere sbalordito. «Il vostro nome?» riprese per la terza volta sua eminenza. «Athos», disse il moschettiere. Il cardinale fece un cenno allo scudiere, il quale si avvicinò. «Questi tre moschettieri ci seguiranno», disse a bassa voce. «Non voglio che si sappia che sono uscito dal campo, e se ci seguono saremo certi che non lo diranno a nessuno». «Vostra Eminenza ha ragione di condurci con sé», disse Athos. «Abbiamo incontrato sulla strada delle facce da galera e con 4 di quelle ci siamo perfino azzuffati al Colombier Rouge». «Azzuffati e perché?» chiese il cardinale. «Lo sapete che non mi piacciono gli attaccabrighe». «Proprio per questo ho l'onore di prevenire Vostra Eminenza dell'accaduto, perché potrebbe saperlo da altri e, credendo a un falso rapporto, ritenere noi i colpevoli». «E quali sono stati i risultati di questa zuffa?» chiese il cardinale aggrottando le sopracciglia. «Ma il mio amico Aramis, qui presente, si è buscato una leggera stoccata al braccio, il che non gli impedirà, come Vostra Eminenza può sincerarsi, di salire all'assalto domani se Vostra Eminenza ordina la scalata». «Ma voi», disse il cardinale, «non siete tipi di lasciarvi dare delle stoccate così facilmente. Su, siate sinceri, signori, ne avete pur restituita qualcuna. Confessatevi, sapete che ho il diritto di dare l'assoluzione». «Io, monsignore», disse Athos, «non ho neppure messo mano alla spada, ma ho preso il mio uomo alla vita e l'ho scaraventato dalla finestra. Sembra che cadendo», continuò Athos un po' titubante, «si sia spezzato una coscia». «Ah, ah!» fece il cardinale. «E voi, monsieur Porthos?» Io, monsignore, sapendo che il duello è proibito, ho afferrato una panca e con quella ho sferrato a uno di quei briganti un colpo che credo gli abbia rotto la spalla. Bene, disse il cardinale. E voi, monsieur Aramis? Io, monsignore, poiché sono d'indole mitissima e d'altronde, cosa che forse monsignore ignora, sto per riprendere gli ordini, volevo separare i miei camerati quando uno di quei miserabili mi ha vibrato a tradimento una sciabolata al braccio sinistro. Allora ho perduto la pazienza, a mia volta ho sfoderato la spada e poiché l'altro tornava all'assalto, mi pare di avere sentito che, mentre mi si buttava addosso, se l'era infilzata attraverso il corpo. Di sicuro so che è caduto e mi è parso che lo trascinassero via con i suoi due compagni. «Diavolo, signori!» disse il cardinale. «Tre uomini fuori combattimento per una rissa d'osteria! Non ci andate tanto per il sottile, voi altri! E a proposito, qual è stata la causa della lite?» «Quei miserabili erano ubriachi», spiegò Athos. «E sapendo che c'era lì una donna arrivata nella locanda la sera, volevano forzarne la porta». «Forzare la porta?» disse il cardinale. «E a quale scopo?» «Certo, per farle violenza», disse Athos. «Ho avuto l'onore di dire a vostra eminenza che quei miserabili erano ubriachi». «E quella donna era giovane e bella?» chiese il cardinale con una certa preoccupazione. «E non l'abbiamo veduta, monsignore», rispose Athos. «Non l'avete veduta? Ah, benissimo», riprese con vivacità il cardinale. «Avete fatto bene a difendere l'onore di una donna, e siccome io stesso vado a Colombier Rouge, saprò se mi avete detto la verità». «Monsignore», rispose Athos con alterezza, «siamo gentiluomini, e per salvare le nostre teste non diremmo una menzogna». «Sta bene», disse Sua Eminenza, «seguitemi». I tre moschettieri passarono dietro al cardinale, che di nuovo si avvolse il viso nel mantello e rimise il cavallo al trotto, precedendo i suoi quattro compagni di 8 o 10 passi. Giunsero ben presto alla locanda silenziosa e solitaria. Di certo l'oste sapeva quale illustre visitatore aspettava e perciò aveva congedato gli importuni. 10 passi prima di giungere alla porta, il cardinale accennò al suo scudiere e ai tre moschettieri di fermarsi. Un cavallo già sellato era legato all'imposta. Il cardinale bussò 3 volte e in modo speciale. Immediatamente uscì un uomo, avvolto in un mantello, che scambiò rapidamente con lui poche parole. Quindi risalì a cavallo e ripartì nella direzione di Surgères, che era anche quella di Parigi. «Venite avanti, signori», disse il cardinale. «Mi avete detto la verità, signori gentiluomini», aggiunse rivolto ai 3 moschettieri. «Non dipenderà da me se il nostro incontro di stasera non vi sarà vantaggioso. Intanto seguitemi». Il cardinale smontò. I 3 moschettieri lo imitarono. Il cardinale buttò le briglie del suo cavallo allo scudiere. I 3 moschettieri legarono le briglie dei loro alle imposte.